Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, è domenica 22 dicembre 2013, 137esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo la collaborazione preziosa di Francesco Azzurri e per la selezione musicale Giona Vinti e Lorenzo Ranfani. Nella puntata di oggi parleremo della storia di Arcibaldo, cinghiale residente in provincia di Rieti, di un veterinario di Grosseto che ha proposto di uccidere i cani randagi, ovviamente per il loro bene, cioè per evitargli di trascorrere una triste vita in canile. Intervisteremo poi l'antropologa Anna Maria Rivera, studiosa del sessismo, del razzismo e dell'antispecismo, a proposito di un sussidiario delle elementari che nella parte dedicata al ciclo di vita animale-vegetale rappresenta la fase finale della vita di un maiale con l'immagine di un prosciutto. Lorenzo Guadagnucci commenterà poi l'attualità nella consueta rubrica Tigri di carta e infine per la serie A volte ritornano abbiamo una vera perla. Il nostro primo amore, Giuseppe Coco, recensisce per noi un bestseller di divulgazione scientifica, The China Study, l'unica credibile ricerca su vasta scala che sia stata fatta sull'alimentazione umana che ha stabilito la nocività delle proteine animali nella dieta umana. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Siamo al Parco dell'Abatino, in provincia di Rieti, con il professor De Marco che ci guida e cominciamo a fare la conoscenza con uno dei moltissimi ospiti di questo bellissimo luogo. Tanto grosso e tanto coraggioso. Qui gli animali convivono, nel senso che mentre guardiamo in alto dei cunicoli di rete utilizzati dalle scimmiette, in basso, con opportune recinzioni, ci sono pavoni e abbiamo visto passare anche un cinghiale che poi se l'è data a gambe, non sappiamo, per un rumore che ha sentito, non è molto audace, diciamo, come carattere evidentemente. Dunque il cinghiale intanto l'abbiamo chiamato, battezzato Arcibaldo, è arrivato qui, l'ha portato la forestale ed era praticamente un cucciolo, faceva sì e no mezzo chilo, insomma, più piccoletto, quindi l'abbiamo alimentato per parecchi mesi col biberò, col latte, nutrito eccetera, e lui è cresciuto direi quasi a dismisura, perché credo che adesso tocchi quasi il quintale e credo anche che lo superi. Ha un carattere abbastanza vivace, mantenere un cinghiale è molto problematico, abbiamo avuto all'inizio delle difficoltà a tenerlo, perché praticamente non c'è recinto che tenga, quindi da questo punto di vista rilasciarlo ormai è abbastanza imprintato e poi sarebbe molto appetito proprio nel senso letterale del termine, per cui farebbe una fine indegna visto anche la sua storia, ecco. Per cui siamo stati costretti a intervenire operandolo, è stato castrato nel senso che questo gli ha molto ridotto la sua irruenza, infatti adesso è abbastanza tranquillo e gli abbiamo anche un poco ridotto le zanne perché era un po' pericoloso anche accostarsi, nel senso che sono come dei coltelli, cioè possono fare veramente male. Quindi fatto questo adesso è perfettamente, si è integrato molto bene, insomma è diventato un cucciolone. E quindi il suo destino a questo punto è stare all'interno del parco, non si prospetta nessuna possibilità o idea di rilascio. Con chi interagisce? È un po' con tutti. Lui adesso sta in compagnia con degli asini, ma praticamente interagisce con tutti gli animali che gli capita di incontrare. È molto socievole, è venuto, sì, si è rifatto coraggio ed è venuto a qui vicino. Ogni giorno praticamente quando noi innaffiamo, insomma, lui si mette accanto al tubo perché si fa il suo bagno d'acqua. Delle bellissime setole chiare, è un po' un bruno chiaro come colore. Tra l'altro devo dire che insomma quelle poche scuole che vengono, perché poi come struttura è chiusa al pubblico, però insomma magari una volta l'anno qualche scuola facciamo venire, è molto interessante perché molte volte questi cinghiali sono descritti come qualcosa di tremendo, invece insomma una piaga, naturale. Non mi risulta proprio, nel senso che sono, hanno le loro esigenze, le loro caratteristiche, come ogni specie ha le sue, quindi il problema per noi si è presentato nel senso che è difficile contenerli, questo sì, nel senso certo. Che però fa parte del loro mestiere. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Sono al telefono con Claudio, responsabile delle campagne dell'associazione Essere Animali. Ciao Claudio. Ciao a tutti. Con Claudio vorrei commentare l'eclatante azione realizzata e rivendicata da questa associazione che ha liberato recentemente 3 visoni da un allevamento per pellicce. E a Claudio chiedo di spiegarmi qual è il messaggio di questa liberazione, tutto sommato piccola, perché 3 animali non sono niente rispetto a quello che immagino avranno trovato dentro l'allevamento. Ma il messaggio per chi vede il video e chi ha la possibilità di vedere le immagini è chiaro ed evidente. Il messaggio è quello di mostrare con semplicità, semplicemente facendolo vedere, quello che desiderano questi animali. Desiderano uscire da quelle gabbie, desiderano poter correre nei boschi e nuotare nell'acqua. Il filmato per molti, anche per noi stessi, è commovente, perché comunque vedere degli animali prigionieri dalla nascita, da generazioni, ritrovare subito l'istinto naturale, correre, tuffarsi, è qualcosa che comunque ci tocca, ed è proprio questo sentimento che ci spinge ovviamente a voler chiudere tutti questi allevamenti. La liberazione di pochi animali, in questo caso, è stata una liberazione simbolica per ovvi motivi, perché comunque, anche se ci siamo rivendicati pubblicamente come associazione questo gesto, non potevamo certo andare incontro anche a, diciamo, a conseguenze legali molto più gravi, per cui un'azione simbolica ma importante per dare a questi 3 bisoni il valore simbolico della libertà che desiderano tutti gli altri 200.000 prigionieri in allevamenti italiani. Abbiamo lanciato una decina di mesi fa la campagna Visoni Liberi, che è una campagna a livello nazionale che è nata dopo un'investigazione che ci ha portato per circa 18 mesi all'interno di allevamenti di visoni in tutta Italia. Ed è anche questo l'inferno che abbiamo visto quotidianamente, quasi comunque con i nostri occhi, migliaia e migliaia di animali che poi con il tempo sono stati uccisi nelle camere a gas e non ci sono più, e quindi è anche per loro, che per il ricordo di questi animali che abbiamo visto e che a cui dovevamo qualcosa, e non solo far uscire delle immagini, anche per loro abbiamo liberato questi 3 per ricordare cosa avremmo voluto per loro, poter farli uscire da quelle gabbie. E questa campagna Visoni Liberi è nata appunto con lo scopo di arrivare all'abolizione in Italia dell'allevamento di animali da pelliccia. Si è mossa in questi mesi con tantissime manifestazioni, iniziative, tavoli informativi, una petizione che ha raccolto 70.000 firme, e moltissime altre sono le iniziative in corso e che abbiamo in mente e che progetteremo nei prossimi mesi. Che tipo di animale è il visone? Come vive quando è nel suo stato naturale? Il visone americano, quello che viene allevato per la pelliccia, è un animale che vive prevalentemente lungo i corsi d'acqua, capace di nuotare per diversi chilometri e di tuffarsi in acqua, arrivare a fondo anche 7 metri, che è molto solitario, estremamente solitario, tanto che a volte si distanzia persino qualche chilometro dagli altri suoi simili, tranne che nei periodi dell'accoppiamento, dove ovviamente va alla ricerca di altri suoi simili per la procreazione. Da questa anche breve, piccolissima descrizione che vi posso fare, è un animale che vive in una vita completamente stravolta in una gabbia, in un allevamento, perché in un allevamento non solo è prigioniero, prigioniera in una gabbia piccolissima, dove ha malapena lo spazio per girare su se stesso, fare avanti e indietro per pochi centimetri, e dove soprattutto è costretto anche alla vicinanza estrema con migliaia e migliaia di suoi simili, cosa che è fonte di forte disagio, stress, ed è uno dei tanti motivi per cui questi bisogni negli allevamenti hanno dei disagi psicologici veramente gravi, che portano poi ai comportamenti stereotipati, cioè il ripetimento continuo dello stesso movimento, e automutilazioni, aggressioni, ed è il motivo per cui abbiamo trovato anche nel corso della nostra investigazione tanti animali feriti o morti nelle gabbie. Cosa rispondete a chi vi rimprovera di occuparvi di visoni, animali non umani, quando ci sono carcerati o tante altre forme di reclusione e non libertà tra animali umani? Ognuno ha le sue priorità nella propria vita, ognuno ha le proprie priorità negli interessi, eccetera, però comunque ci sono delle cose che sono prioritarie per tutti a prescindere. Una di queste è la libertà, il diritto a non essere uccisi, a non essere sfruttati e imprigionati, e questo vale tanto per gli esseri umani, come dicevi, e tanto per gli animali. Il discorso che facciamo noi, il discorso antispecista, è proprio anche, lavorando e lottando per la libertà degli animali, mostrare anche quali sono delle zone d'ombra di questa società che comunque si dice tanto libera, ma poi in realtà non lo è, tanto che ci sono degli esseri viventi che vengono imprigionati, uccisi e scoiati per farne dei capi d'abbigliamento, oppure altri che vengono chiusi nei laboratori di sperimentazione. Queste sono delle zone segrete di questa società che la gente non conosce, e abbattere questo sfruttamento degli animali ovviamente per noi ha anche un valore importante per creare una società che sia molto migliore anche nel rapporto tra esseri umani e altri esseri umani. Cosa chiedete a chi ci ascolta? Seguirci sul sito www.essereanimali.org, iscriversi alla nostra newsletter, e la campagna per l'abolizione degli animali da pelliccia continuerà. Lanceremo a breve delle nuove iniziative dove tutti potranno anche essere coinvolti, perché è sempre fondamentale il messaggio che vogliamo dare: non aspettare che siano altri a fare quello che potremmo fare noi, quindi essere noi partecipi in prima persona del cambiamento. Claudio, grazie per quello che state facendo, complimenti a Essere Animali. Grazie. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Non è un libro per vegan convinti. È una lettura consigliata per chi è dubbioso, per chi vuole conoscere come ci si dovrebbe alimentare per stare in salute, prevenire le malattie, inquinare meno, salvare le risorse idriche, emanciparsi dalla schiavitù delle multinazionali farmaceutiche. Non è un testo che consiglia stili alimentari specifici, non è un testo fondato su ipotesi e notizie vaghe. Il libro prende spunto da un grosso e impegnativo studio epidemiologico che Campbell, grazie all'impegno fra Università Cornell, quella di Oxford e l'Accademia Cinese di Medicina Preventiva e quella di Scienze Mediche, ha iniziato nel 1983 e terminato nel 2004. Questo studio ha consentito di raccogliere ed elaborare dati su campioni di popolazioni aventi condotte alimentari e stili di vita differenti, che ha portato ad evidenziare due grossi gruppi di patologie, quelle legate alla povertà e quelle legate al benessere. Il portentoso volume è scritto in modo semplice, chiaro e appassionante, quasi come un romanzo. Lungo e numerosi capitoli vengono analizzate le patologie del benessere, dall'eziologia alle manifestazioni e la prevenzione che si può adottare. Campbell racconta anche il suo percorso, i dubbi, gli ostacoli che ha incontrato in questi anni, l'ostruzionismo da parte di colleghi e istituzioni di ricerca, mettendo in luce anche uno spaccato sociale della realtà medica americana e non solo. Una lettura consigliata prima, durante e dopo le bisbocce festive. Leggiamo un brano tratto da The China Study, in cui si tratta l'argomento della resistenza opposta dalle istituzioni sanitarie a ogni cambiamento negli stili di vita alimentari e a ogni considerazione del frutto delle ricerche condotte sull'influenza di certi cibi e di certe abitudini alimentari sulla determinazione di malattie molto gravi. Il sistema sanitario è strutturato in modo tale da trarre profitto dagli interventi di tipo chimico e chirurgico e la dieta ha ancora un ruolo subalterno rispetto ai farmaci e alla chirurgia. Una critica che si sente spesso rivolgere alla tesi nutrizionale è che i pazienti non sono disposti ad attuare cambiamenti così radicali. Un medico in particolare lancia l'accusa che i pazienti cambiano le loro abitudini alimentari semplicemente per la fede fanatica del dottor Esselzin. Non si tratta solo di un'obiezione errata e offensiva per i pazienti, ma anche della classica profezia che si autoavvera. Se i medici non fossero convinti della disponibilità dei pazienti a cambiare la dieta, trascurerebbero di parlarne o lo farebbero in modo sbrigativo e denigratorio. Non c'è peggior mancanza di rispetto da parte di un medico nei confronti di un paziente che non fornire informazioni di importanza potenzialmente vitale sulla base della supposizione che il paziente non sarà disposto a cambiare il suo stile di vita. Anche le istituzioni meglio intenzionate non sono esenti da atteggiamenti miopi di questo tipo. Per le cardiopatie, l'American Heart Association, l'Associazione Americana per il Cuore, raccomanda una dieta che promuove la moderazione piuttosto che la verità scientifica. Il Programma Nazionale di Educazione sul Colesterolo fa la stessa cosa. Queste organizzazioni propongono diete moderate che presentano cambiamenti irrilevanti, come se fossero traguardi per uno stile di vita salutare. Queste venerabili organizzazioni non forniscono al pubblico americano le informazioni scientifiche aggiornate. Ci viene detto che un valore di colesterolo endogeno totale di 200 mg è auspicabile, mentre sappiamo che il 35% degli infarti colpisce soggetti americani con livelli di colesterolo compresi fra 150 e 200 mg. Un valore di colesterolo davvero sicuro è quindi inferiore ai 150 mg. Sappiamo anche che la più decisa inversione di tendenza nelle cardiopatie mai registrata si è avuta quando i grassi corrispondevano a circa il 10% dell'apporto calorico totale. Le ricerche hanno chiaramente dimostrato che molti pazienti che seguono le diete più moderate promosse dal governo assistono a un progredire delle cardiopatie. Che gli scienziati, i medici e i responsabili delle decisioni politiche pensino che il pubblico cambi o no, i non addetti ai lavori devono essere informati del fatto che i cibi naturali, di origine vegetale, rappresentano la dieta di gran lunga più sana che si possa seguire. Ora è tempo di grandi speranze e di sfide impegnative. È tempo che la gente assume il controllo della propria salute. Uno dei medici più competenti e impegnati che abbia mai incontrato, il dottor Caldwell Esselstyn, non poteva esprimere meglio questo pensiero. La coscienza e la volontà collettiva della nostra professione sono messe alla prova come mai prima. Ora è tempo di avere il coraggio di compiere un lavoro leggendario. Pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta che andiamo a proporre oggi è un classico della cucina italiana, è il ragù. Ma questa volta il ragù è di Okara. Che cos'è l'Okara? L'abbiamo spiegato nelle prime puntate. Comunque, in sintesi, sono i fagioli di soia tritati che usiamo per produrre il latte di soia. Questi sono gli ingredienti per 4 persone, ci vogliono 200 g di okara, 250 g di pomodori freschi o polpa di pomodoro, una carota, una cipolla, un gambo di sedano, uno spicchio d'aglio, una scorza di limone, salvia e rosmarino, un bicchiere di vino rosso, olio extravergine d'oliva e sale e pepe. Prepariamo un battuto con il sedano, la carota, la cipolla, l'aglio, la salvia ed il rosmarino e la scorza di limone. Non tritata, lasciamo una scorza di limone intera. Mettiamo questo battuto in un tegame e lo copriamo con acqua. Lasciamo evaporare l'acqua a fuoco medio e quando se ne sarà ritirata tutta mettiamo dell'olio di oliva extravergine e lo facciamo rosolare per qualche minuto. Ricordo che usiamo questa tecnica, cioè il fatto di far sbollentare, diciamo così, il battuto prima in acqua, perché questo ci permette da una parte di consumare meno olio, quindi utilizzarne meno, ma anche di avere un battuto che risulta più leggero. Quindi, dicevamo, dopo aver fatto rosolare il battuto con l'olio di extravergine d'oliva, uniamolo cara e facciamo cuocere per qualche minuto, avendo cura di mischiare bene perché l'ocara tende ad attaccarsi facilmente. Bagniamo col vino rosso e lo lasciamo evaporare. Dopodiché aggiungiamo i pomodori tagliati a pezzetti o la polpa di pomodoro, lo aggiustiamo di sale e pepe, lo copriamo con acqua o con del brodo vegetale e lo portiamo a cottura a fuoco molto lento, fino a quando non si sarà ben ritirato. A questo punto aggiungiamo un filo d'olio a crudo e una macinata di pepe nero. A questo punto il nostro ragù è pronto, possiamo utilizzarlo per condire della pasta e che dire, buon appetito! Se vi foste persi ingredienti, procedimento, la ricetta intera, non vi preoccupate perché potete ritrovare tutto sul nostro blog che è restiamoanimali.wordpress.com. Quindi buon appetito e buona sperimentazione in questa cucina senza crudeltà. E aspetto i vostri feedback, se avete domande, curiosità, foto anche delle vostre prestazioni culinarie, basta mandare un'email a restiamoanimali@controradio.it. Vi aspetto domenica prossima, l'appuntamento è sempre su Controradio nella rubrica Il Pasto Gentile. La Bella, la Bestia e l'Umano con Anna Maria Rivera. Con Anna Maria Rivera vogliamo parlare oggi di un caso che ci ha segnalato un nostro amico ed ascoltatore Andrea Oleandri. È il caso di un sussidiario per le scuole elementari pubblicato dalle edizioni Il Capitello, e nel capitolo riguardante il ciclo di vita nell'ambito sia del regno animale che del regno vegetale c'è una sequenza che ha fatto sobbalzare il nostro amico Andrea e anche noi che abbiamo avuto l'occasione di conoscere questa parte di questo volume. Nello schema anche grafico che viene proposto in questo testo c'è il caso di un maiale che nasce, si sviluppa, addirittura si mostra, fra virgolette, l'innamoramento fra un maiale maschio e un maiale femmina, la nascita di una nuova creatura, e per identificare il ciclo conclusivo della vita si mostra addirittura un prosciutto, dando una visione veramente scioccante del ciclo di vita di un animale. Anna Maria, che impressione ti ha suscitato questo sussidiario, questa proposta educativa, chiamiamola così, perché di questo si tratta? Tu hai sintetizzato bene cos'è che ha attirato la nostra attenzione e ci ha scandalizzati, insomma. Simmetricamente, da una parte c'è il ciclo di vita di una pianta, dall'altra quello di un animale. Bene, la pianta è prima seme, poi virgulto, poi in piena crescita, infine ridotta a rami secchi, e dall'altra parte, a illustrare sempre il ciclo della vita, c'è questo maialino che nasce, lo si rappresenta mentre allatta dalla mamma, cresce, si innamora e si riproduce, invecchia e diventa prosciutto. Da una parte c'è un gravissimo errore di carattere etico e pedagogico, potremmo dire, perché si nasconde ai bambini che dietro questa specifica, peculiare scelta alimentare, perché non tutti si alimentano, si nutrono così, si nutrono di carne di maiale, si nasconde che dietro questa scelta c'è la sofferenza e la morte di altri esseri viventi. Ma dall'altra parte, notate bene, il sottotitolo di questo sussidiario è Matematica, Informatica, Cose e Natura. Intanto è da notare, appunto, dal punto di vista scientifico, questa strana suddivisione. Dalla natura è escluso l'umano, e il maiale è ricondotto a mera natura. e persino il prosciutto, cioè questa produzione che appartiene a una parte molto limitata dell'umanità, perfino il prosciutto è naturalizzato, cioè essere ridotti a prosciutto è considerata non solo la fine naturale, tra virgolette, del maiale, ma il prosciutto stesso è considerato un fatto della natura. È come se ovunque si dice implicitamente, attraverso queste illustrazioni, che ovunque sempre il destino naturale dei maiali sarebbe quello di finire come prosciutto. Anche dal punto di vista scientifico, non solo quanto prima etico e pedagogico, è veramente un'enormità. Tra l'altro la cosa, come dire, risalta ancora di più come scandalosa per il fatto che oggi non si fa che parlare di intercultura, di educazione alla pluralità interculturale, eccetera, eccetera. Attraverso questa scelta si nasconde ai ragazzi che per buona parte dell'umanità, per esempio ebrei e musulmani, è proibito cibarsi di carne di maiale, e in tal modo oltretutto si offendono gli eventuali alunni di religione ebraica o musulmana. Dal punto di vista pedagogico è un insieme, è una catena di errori questo messaggio. Errori non solo di tipo etnico, ma perfino di scientifico e aggiungerei anche, per così dire, logico-filosofico, perché la gran parte degli animali non umani appartengono anche alla cultura, se si intende come elemento, come dire, minimo, basilare della cultura, l'attitudine a elaborare soluzioni, come dicono gli antropologi, soluzioni differenziate per risolvere uno stesso problema del medesimo ambiente. Cioè, agli umani si nega la natura, agli animali si nega la cultura e si universalizza il fatto, si naturalizza e quindi universalizza il fatto che per dei maiali la morte naturale, appunto, è quella di finire come prosciutti. Un autentico orrore, per concludere. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista. Fra le notizie che hanno dominato il mondo dei media nell'ultima settimana c'è sicuramente il debutto in borsa dell'azienda Moncler, che produce e vende in tutto il mondo i famosissimi piumini. Moncler, quotando una quota del capitale, ha realizzato un vero exploit, tanto che in questi giorni l'azienda vale circa 3,5 miliardi di euro, una cifra gigantesca. Ebbene, Moncler è stata descritta, lodata, esaltata dai quotidiani per le capacità imprenditoriali di chi la dirige e anche per il suo glamour, quindi articoli, commenti, note di colore su personaggi dello spettacolo, del cinema, della televisione, dello sport che hanno indossato nel tempo i suoi prodotti. Non è praticamente apparsa invece in nessuno di questi articoli una considerazione su come Moncler produca i suoi oggetti, da dove cioè provengano le piume d'oca, che storia abbiano questi giubbotti venduti a caro prezzo, quanta sofferenza comporti per gli animali che sono costretti alla sevizia perché questi giubbotti possano essere venduti. Eppure probabilmente parliamo di milioni di individui, verso i quali non si è notata una minima menzione, un minimo pensiero, una minima considerazione. Una perfetta rimozione che ha il sapore amaro dell'ipocrisia, della falsità. In un'intervista pubblicata su Repubblica mercoledì 18 dicembre 2013, Mr. Moncler al secolo Remo Ruffini ha risposto a una serie di domande, devo dire molto gentili, da parte della cronista sul funzionamento della sua azienda, sui successi fin qui ottenuti, sul Made in Italy che viene lodato pagina dopo pagina. C'è una domanda che ha toccato il punto della, fra molte virgolette, materia prima utilizzata da Moncler. Ovviamente non sono menzionate però le oche, incredibilmente. Ecco la domanda. Il suo mestiere è il prodotto. Dove si comprano 130 milioni di tonnellate di piume l'anno? Ed ecco la risposta. Crediamo molto nella qualità. Un piumino deve durare e fare caldo. Non compriamo mai piuma cinese. Ordiniamo con 2 anni di anticipo in tanti paesi come USA, Canada, Francia, Italia per diversificare il rischio di trovarci a corto di piume di qualità. Tutto qui. Scomparsi gli animali, scomparse le torture, scomparse le uccisioni di massa delle oche, la cui fine è nota. Dopo il primo spiumaggio in tenera età ci sarà il macello e anche un secondo spiumaggio probabilmente prima di finire in qualche piatto. È l'ennesimo caso di come la questione animale venga affrontata nella nostra società semplicemente rimuovendola, fingendo che non esista, concedendo a chi usa gli animali per il proprio profitto di fare finta di niente. Ci sarebbe da chiedere a Remo Ruffini perché mai Moncler, azienda così avanzata, così proiettata nel futuro, non pensi finalmente ad adottare materiali sintetici, ne esistono, per sostituire i piumini d'oca, che solo una mentalità vile e violenta può considerare materia prima. Esistono ad esempio dei materiali di riciclaggio derivati da involucri e confezioni di plastica che permetterebbero di produrre giubbotti di altrettanta qualità rispetto a quelli che oggi Moncler mette sul mercato, ma forse chiedere innovazione, chiedere a un imprenditore di lavorare anche con gli strumenti dell'etica, della responsabilità verso gli altri esseri viventi, è chiedere troppo, almeno per i media italiani. Nel nostro piccolo lo facciamo noi. Signor Ruffini, perché non smette di usare piumini d'oca e non passa a una produzione più moderna, più responsabile, più intelligente, più proiettata nel futuro? Un'altra notizia che vogliamo segnalarvi è quella dell'apertura nella città di Firenze dell'ennesimo negozio della catena alimentare Italy, proprietà di un altro personaggio che sta imperversando sui media e che viene lodato ad ogni piesso spinto, Oscar Farinetti. Su questo punto vi segnaliamo in particolare le pubblicità comparse su tutti i quotidiani e che attestano quanto Italy sia espressione di un tradizionalismo del tutto incapace di innovare. In questa pubblicità compaiono infatti pezzi di carne cruda, materia morta, esibita con noncuranza, tranci di carne sovrapposti a tortiglioni, spaghetti, pere, cavoli, un'esposizione macabra del tutto insensibile alla storia sociale di questi pezzi di carne. L'ennesima riprova che il nuovo molto spesso è un travestimento dell'identico. Anche qui non c'è nessuna tensione etica, nessuna tensione morale, nessun accenno a un senso di responsabilità riguardo alla produzione del cibo. È solo la complicità di una società incapace di guardare se stessa e di riconoscere nel diverso il proprio interlocutore può riuscire nell'impresa di attribuire a imprenditori del genere il crisma dell'innovatività. Siamo tutti randagi contro la legge che condanna a morte i cani randagi in Romania, contro la proposta di una legge analoga in Bosnia, contro la tentazione di tagliare i contributi ai canili che circola anche nel nostro paese per finanziare chi si batte in favore dei randagi. La redazione di Restiamo Animali e il GATT, gruppo antispecista toscano, organizzano sabato 28 dicembre 2013 alla Casa del Popolo di Settignano una grande cena benefit a 15 euro che sarà anche un evento informativo. Ospiti via Skype e in persona Sara Turetta, l'eurodeputato Andrea Zanoni, il professor Luigi Lombardi Vallauri e tanti altri ancora. Il ricavato andrà all'associazione italo-rumena Save the Dogs, che in Romania sta salvando centinaia di cani, asini e altri animali. Per le prenotazioni scrivete a restiamoanimali@gmail.com, perché siamo tutti randagi. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.